Benvenuti nella mansarda del Dottor Pirate. Parleremo del seguito dei Guardiani della Galassia, che è stato un film molto divertente e con tanto cuore. La simpatica compagnia di sociopatici outsider era convincente, tanta epicità e azione, ma anche goliardia, sentimenti. Alla fine per me è stata una sorta di Indiana Jones nello spazio. La seconda volta è sempre più difficile, ma il regista James Gunn è un figo, uno che faceva i film per la troma lo è per forza. Film a basso costo, irriverenti, con personaggi super caratterizzati, folli. Lui ha un bagaglio di conoscenze esaustivo su tutto quello che è badass e anni 80, per cui tutte cose estremamente utili. Ha reso celebri dei personaggi dell'universo Marvel poco conosciuti da parte del grande pubblico, rendendoli iconici o indirizzandoli sulla giusta via del mito. James Gunn ha fatto le scelte giuste, lui è anche sceneggiatore, per cui l'opera è completamente sua e lo si vede nella cura dei particolari. Come prima cosa non ha aggiunto un numero eccessivo di nuovi interpreti, ma ha voluto concentrarsi su quelli già esistenti. Ottima scelta, perché spesso nei seguiti dei film dei supereroi si è esagerato nell'aggiungere, creando spesso delle cozzaglie selvagge, rendendo così difficile concentrarsi sui personaggi che già conosciamo e che vogliamo conoscere ancora meglio. In mezzo a tanta azione, battute sagaci e freddure, abbiamo però anche tanto cuore. Il tema principale è la famiglia, ed un ruolo fondamentale viene giocato dal padre naturale di Star-Lord, Ego, interpretato da Kurt Russell, e da Yondu, colui che lo ha cresciuto, che forse è il personaggio che più vi sorprenderà. I guardiani si sono incontrati per caso, chi più chi meno erano dei farabutti, dei cialtroni, adesso però di fatto si sono scelti null'altro e hanno creato un legame speciale. Sono una famiglia, e come in tutte le famiglie si litiga. Si urla, si cerca l'approvazione degli altri membri, si difendono i membri più piccoli, più deboli, vedi il piccolo Groot che adesso è piccolino, è un piccolo albero, non solo nelle dimensioni ma anche nel comportamento, è un bambino e questa cosa è fantastica perché deve essere accudito e per cui si andranno a creare delle situazioni molto divertenti perché lui si rapporta con gli altri guardiani in modo differente a seconda di chi si trova davanti. Viene anche dato più spazio a Drax rispetto alla pellicola precedente, un personaggio curioso con una comicità tutta sua per via della sua dualità, perché lui sembra cupo, quasi depresso, però poi viene fuori con le sue uscite, con le sue battute assurde e giustamente è stato valorizzato. Per cui la famiglia, quella che scegliamo noi, i legami che ci legano ad altri, che vanno oltre il sangue, queste sono le cose importanti. La grandezza di una pellicola del genere, se penso ai recenti film corali di supereroi, è che con i guardiani riesco a provare empatia nei loro confronti. Mi importa di loro, della loro sorte. Ci uscire insieme e berrei con loro una birra in qualche pub spaziale. Quando i personaggi vengono mostrati per quello che sono, quando si fa luce sul loro essere più profondo, la cosa viene sempre in rapporto con un altro. Ed è molto bello perché non si è mai da soli, il rapporto con gli altri è importante. Invece gli altri eroi della Marvel, quelli classici, quando fanno gruppo e si picchiano, mi lasciano indifferente, non percepisco drammaticità e neanche così tanto divertimento. Vedo una carnevalata di gente che si prende troppo sul serio ed è super generica. Invece i guardiani sono caratterizzati benissimo e alla fine non si prendono troppo sul serio. E poi abbiamo un regista che sa imprimere il suo punto di vista, perché ha fatto delle scelte forti e specifiche. Infatti in tutto questo il regista James Gunn decide di infilarci tantissime citazioni assolutamente fantastiche. Sono inserite in modo anche inaspettato e come se non bastasse avremo anche cameo di vari personaggi famosi e ce n'è uno incredibile, non vi dico nulla perché è veramente super e se non siete a conoscenza non voglio rovinarvi la sorpresa, ma questo è lo spirito giusto. Anche questi particolari fanno la differenza e a parer mio mostrano il grande amore che James Gunn ha per la pellicola e anche tutto il suo background molto anni 80. Esteticamente il film è sempre molto forte, colorato, siamo in pieno territorio fantasy nello spazio, magari meno sgargiante del precedente, ma deve essere stata una scelta stilistica. Le scene d'azione sono ben dirette, si riesce ad evitare l'effetto non capisco niente nelle sequenze più incasinate, ma la maestria del regista era chiara da tempo. Capite che il film è sostanzialmente figo in tutti i reparti dove deve esserlo. Chiaro che Manca un po' l'effetto sorpresa del primo, che però, diciamolo, è stato un fulmine a ciel sereno, una bomba a mano, una scheggia impazzita dentro l'universo dei film derivati dai fumetti, dominati dai classici supereroi. Nessuno si sarebbe aspettato qualcosa del genere. Per cui abbiamo tutti gli ingredienti che conosciamo, in alcuni casi fatti anche meglio, ma forse manca un po' quella sensazione di stupore e di sorpresa che avevamo provato giustamente nel primo capitolo. Mi ricordo il balletto iniziale di Star-Lord, fantastico, avevo un sorriso stampato in faccia, era come vedere un Indiana Jones spaziale, ma con la faccia ancora più di bronzo. Ma appunto, a parte queste cose, magari una trama che non è al top, il seguito dei Guardiani della Galassia fa centro. Colpisce il bersaglio, il tempo durante la visione vola. E noi vogliamo sempre più bene a questa manica di cialtroni. Se vi è piaciuto il primo, andate sul sicuro. Se non vi è piaciuto, non avete cuore. Alla prossima!